Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, sono le 11.07, benvenuti, buona settimana, andiamo subito al sommario di oggi. Pelle e sole, bilancio di fine estate, tè verde, novità dalla ricerca, un atleta per amico, Roberto Cammarelle. Oggi faremo un viaggio dalla testa ai piedi alla scoperta dei benefici del sole con suggerimenti per mantenerli più a lungo possibile, ma naturalmente parleremo anche dei danni con indicazioni e rimedi. Insieme a noi il professor Giuseppe Monfrecola, ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Professore, io direi iniziamo a fare un primo bilancio. Innanzitutto ricordo che il nostro numero verde è già attivo, a disposizione dei nostri radioascoltatori, 800 24 00 24. I messaggi al 349 238 6666. Ci ha raggiunto anche il professor Marcello Monti, che insieme al professor Monfrecola resterà a nostra disposizione sino alle ore 12, responsabile dell'unità operativa di dermatologia dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Professor Monti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, la domanda che ci guiderà in questa puntata è: la nostra pelle ci ha guadagnato dall'esposizione solare o l'abbronzatura ci è costata cara? L'estate, lo sappiamo, a volte lascia il segno, macchie, micosi, compaiono nuovi nei, però alcune patologie migliorano sensibilmente. Allora, abbiamo realizzato un breve sondaggio per tastare un po' il polso della situazione, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Intanto voi preparatevi a chiamare il nostro numero verde. Ma mi sono scottata in barca e vedo che la pelle fa proprio fatica a tornare come prima. Ma l'estate mi fa molto bene, quasi un toccasana, perché la mia dermatite praticamente sparisce. Adesso sono preoccupato perché con l'inverno, soprattutto con l'autunno e l'umido, inizierà a peggiorare. Io d'estate il sole non lo prendo quasi mai, perché se no mi riempio di nei oppure di lentiggini, di macchie, quindi ho la pelle troppo sensibile, preferisco evitarlo. Ho la pelle molto secca, direi quasi avvizzita, anche se metto molta crema non succede niente, i risultati sono scarsi. Quest'estate ho preso il sole senza protezione e senza neanche mettere il doposole, e adesso mi sono scottato e mi sto anche spellando. Spero mi passi in fretta perché faccio anche fatica a dormire. Ho preso appuntamento proprio oggi dal dermatologo perché ho delle macchie più chiare sulle gambe, forse un fungo. E allora continuate a voi da casa, 800 24 00 24. Ma professor Monfrecola, aggiungiamo qualche elemento prima di commentare il nostro sondaggio, che direi vi fornisce tanti spunti di discussione che riprenderemo naturalmente nel corso della nostra trasmissione. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, che vantaggi può averci dato l'esposizione solare? Parliamo di un'esposizione però fatta nel rispetto delle regole. Ecco, sì, lei ha detto una cosa giustissima, perché il bicchiere sarà mezzo pieno solo se non abbiamo avuto comportamenti sopra le righe, e cioè non abbiamo avuto forti e prolungate fotoesposizioni, e con una cute chiara, per esempio. Vantaggi, ma certamente noi siamo nati sotto il sole e pertanto la nostra pelle è abituata a interagire con esso. Per esempio la sintesi di vitamina D, la nostra pelle sintetizza vitamina D quando siamo esposti al sole, quindi sicuramente un effetto benefico. Tutti quanti riscontriamo un miglioramento del tono dell'umore, per esempio quando siamo al sole, una giornata uggiosa, coperta, nuvolosa, non ci dà la stessa sensazione a livello proprio di tono dell'umore come una giornata al sole, quindi ci sono dei meccanismi che sicuramente vanno a influenzare questo tono dell'umore, il che non è poco se consideriamo l'interezza della persona e non soltanto la nostra pelle. E infine, come hanno sottolineato alcune delle telefonate che abbiamo sentito, gli effetti benefici su alcuni tipi di cute, per esempio una cute seborroica o acneica, può sicuramente migliorare, almeno in buona parte nelle prime fasi, con l'esposizione al sole, alcune patologie come la psoriasi, come la dermatite seborroica, la dermatite atopica, quindi sicuramente la nostra pelle riceve anche dei benefici da parte del sole, non soltanto dei danni. Professor Monti, con lei invece guardiamo il bicchiere mezzo vuoto, parliamo dei danni. E dobbiamo parlarne perché i danni ci sono, lo abbiamo sentito già nelle interviste fatte, per esempio l'aumento dei nei o delle lentiggini è un fatto costante dopo lunga esposizione, soprattutto per chi ha la pelle chiara, ma il concetto fondamentale è che sotto il sole si invecchia la pelle, e ha una una giovane donna intervistata ha detto ho la pelle secca e non riesco più a farla tornare morbida neanche con le creme. Ecco, non è soltanto pelle secca, è avvizzimento, è perdita di elasticità, è macchie sulle gambe, sul volto, sulla schiena, la perdita dell'elasticità porta alla formazione delle rughe, insomma un complesso di cose che la gente non vorrebbe avere, vorrebbe stare al sole e non invecchiare. Purtroppo questo ancora bisogna fare una serie di manovre e di attenzione, perché altrimenti la nostra pelle invecchia. Ecco. I marinai, i maestri di sci, chi è stato molto esposto al sole ha il segno del sole addosso. Allora, noi vi diamo il tempo per chiamare il nostro numero verde 824 0024. Tra poco affronteremo il grande capitolo delle macchie. A noi sembrano più o meno tutte uguali, no? Ma ci sono macchie e macchie, quelle del sole, quelle degli anni, quelle che invece sono segno della presenza di funghi. Metteremo come sempre al lavoro i nostri esperti, voi tenetevi pronti a descriverle bene. Ma chiederei allora al professor Monfrecole e al professor Monti di quali indicazioni hanno bisogno per aiutarci. Professor Monfrecola. Ma innanzitutto la storia di queste macchie, sono macchie che sono lì dalla nascita, sono recenti per esempio, oppure hanno avuto un'accentuazione dopo il sole, oppure non manifestano nessuna accentuazione con il sole, e poi ancora, sono sempre le stesse o sono aumentate? Dove sono queste macchie? Sono prevalenti sul viso? Professor, sul collo, non so. Quindi la localizzazione è importante, professor Monti, vuole aggiungere una richiesta anche lei? Ma certamente, se sono lisce, per esempio, se sono rugose, se hanno presenza di peli o meno, insomma c'è una serie di evidenze per il dermatologo che fa capire che tipo di chiazza è e che importanza ha questa chiazza. Quindi i nostri esperti sono a vostra disposizione e voi tenetevi pronti per descrivere con attenzione le vostre macchie. Poi nel corso della trasmissione ci occuperemo naturalmente anche dei nei, delle patologie che con il sole hanno ricevuto un miglioramento per mantenere il più a lungo possibile gli effetti benefici di un'esposizione solare, però sottolineiamo, fatta nel rispetto di tutte le regole. Una mela al giorno. L'interesse del tè verde è sempre verde, verrebbe da dire così, no? Leggendo i risultati delle numerose ricerche che da anni si concentrano su questa bevanda. Ma che cosa ha poi di così speciale per meritare la fama di alleata della nostra salute? Pronto a rispondere a questa domanda, in linea con noi abbiamo il professor Andrea Semplicini dell'Università di Padova, che con il suo gruppo da anni studia gli effetti del tè verde sull'ipertensione e sui rischi cardiovascolari. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Il professor Semplicini, tra l'altro, è responsabile dell'ambulatorio dell'ipertensione arteriosa del Policlinico Universitario di Padova. Ma, professore, qual è la forza del tè verde rispetto, ad esempio, al tè nero? Che cosa ha di più o di diverso? Il tè verde e il tè nero sono ricavati dalla stessa pianta, ma differiscono per il trattamento delle foglie. Sì. Il tè verde è preparato con foglie fresche, il tè nero con foglie fermentate. Purtroppo la fermentazione fa perdere alcuni principi attivi, le catechine, cui quindi vanno attribuiti gli effetti benefici del tè verde. Professore, ma quando voi parlate di consumo abituale, a quale quantità fate riferimento? Una, due, tre tazze? Ma gli studi hanno dimostrato che tanto maggiore è il consumo di tè, tanto minore è la probabilità di ammalarsi di malattie cardiovascolari, l'infarto per esempio è una di queste. Nell'intera popolazione, quindi in prevenzione, si è vista una riduzione del rischio già nelle donne che ne assumevano due tazze al giorno. Sì. Invece, nei pazienti che avevano già avuto un infarto, per vedere un beneficio, sono state necessarie dosi molto più alte. Quindi, prima si inizia l'assunzione del tè, tanto meglio è, perché gli effetti si vedono a dosi più basse. Tra l'altro, sul numero di settembre della rivista ufficiale della Società Americana di Nutrizione è stato proprio pubblicato il vostro studio che dimostra che il tè verde ha degli effetti proprio positivi sulla pressione, soprattutto previene i danni della pressione alta, quindi un'altra medaglia, no, che aggiungiamo a questa bevanda, amico del nostro cuore, no professore? Certo. Infatti abbiamo dimostrato che il tè verde protegge il cuore dai danni causati dall'ipertensione, non solo riduce la pressione, ma protegge anche il cuore. L'ipertensione è una delle più importanti cause di malattie del cuore, del cervello e in generale della circolazione. il super lavoro dato dall'ipertensione ingrossa il cuore e causa la cosiddetta ipertrofia del ventricolo sinistro, come l'allenamento sportivo ingrossa i muscoli delle braccia, delle gambe, gli addominali. Però l'ipertrofia del ventricolo sinistro, determinata dall'ipertensione, in primo luogo riduce l'ossigenazione del cuore e quindi favorisce l'infarto, e in secondo luogo causa la sua dilatazione e quindi lo scompenso cardiaco, l'insufficienza del cuore. Noi abbiamo dimostrato con il nostro studio che le catechine del tè verde, oltre che ridurre la pressione, bloccano in maniera selettiva, specifica, i segnali cellulari che causano l'ipertrofia del cuore e così facendo lo proteggono dai danni dell'ipertensione. Professore, ma guardiamo l'altra faccia della medaglia. È vero che un consumo eccessivo invece potrebbe avere effetti negativi sul fegato? Ma l'assunzione eccessiva di qualunque cosa può far male, anche di acqua se c'è insufficienza renale, per esempio. Anche il tè verde contiene caffeina, può avere effetti eccitanti, quindi sul cuore, causare batticuore, aritmie. Poi si è visto che una dose eccessiva riduce l'assorbimento del ferro nell'intestino e quindi può favorire la comparsa di anemie. In generale in gravidanza non si devono superare le 5 tazze al giorno. Sì. Non mi risultano importanti danni del fegato e la storia millenaria di questa bevanda, che è la seconda per assunzione al mondo solo all'acqua, ci tranquillizza. Però non dobbiamo pensare al tè verde come alla panacea, dimenticarci l'importanza di correggere un po' tutte le abitudini alimentari sbagliate, l'eccessiva assunzione di grassi, alcol, zucchero, la sospensione del fumo, l'aumento dell'attività fisica, il calo di peso. Sono tutte misure importanti per prevenire le malattie cardiovascolari, che sono la più frequente causa di morte e di ospedalizzazione anche in Italia. Quindi un consumo moderato e regolare di tè verde in qualche modo aiuta, è un alleato in più nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Certo, l'American College of Cardiology, un'autorevole società scientifica americana, consiglia l'assunzione di 1-2 tazze al giorno insieme a tutte le altre misure, diciamo così, igienico-dietetiche per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. E rianalizzando tutti i dati pubblicati in letteratura negli ultimi 50 anni. Si può dare anche ai bambini, professore? Certo, nelle dosi non eccessive che ho ricordato, 1-2 tazze al giorno, ma anche per loro vale quello che ho appena detto. Non bisogna concentrarsi solo sul tè verde, bisogna che i bambini riducano il tempo che trascorrono davanti alla televisione, prevenire o correggere il sovrappeso, incoraggiandoli a fare sport. Quindi prima si comincia la prevenzione, migliori sono i risultati e migliori è la possibilità che abbiamo di vivere a lungo e sani. Professore, io la ringrazio, complimenti per il vostro studio, le auguro una buona giornata e anche una buona tazza di tè verde a questo punto. Grazie, grazie. Non se la dimentichi, buona giornata. Certo. Grazie anche a voi, arrivederci. Pronto soccorso. Osservatevi allo specchio, se potete, o cercate di ricordarvi, andate un po' a memoria. Avete delle macchie sulla pelle? Da quanto tempo? In che zona del corpo? E soprattutto, che aspetto hanno? Lo chiediamo a voi, perché oggi potete essere aiutati dal professor Giuseppe Monfrecole e dal professor Monti, che sono in linea con noi, 824 0024. Professor Monti, chiare, scure, bianche, iniziamo dal colore. Che cosa ci dice? Allora, il colore dice questo: se sono scure fanno pensare che ci sia della melanina, cioè che facciano parte del quadro dei nei della pelle, sì. Ma purtroppo ci sono anche quelle che fanno pure scure, che fanno parte dell'invecchiamento cutaneo, cioè le macchie cosiddette solari, che sono anch'esse scure, quindi sono due cose differenti. Se sono chiare invece fanno pensare che si stia perdendo il pigmento, cioè la melanina, e quindi andiamo nel campo della vitiligine oppure di depigmentazione per altre malattie che sono insorte. Quindi il colore è estremamente importante ed è una differenziale che noi teniamo sempre in conto. Professor Monfrecola, riguardo invece alla localizzazione ci sono delle precisazioni da fare. Ad esempio noi siamo soliti pensare quelle sulle mani, si dice, ma sono quelle della vecchiaia. Quelle che compaiono intorno agli occhi sono gialline, si dice, ma sarà un problema di fegato. Lasciamo tranquillo il fegato in questa occasione, sicuramente non c'entra, ma volevo dirle questo. Sì, la localizzazione è importante perché, per esempio, lei ha fatto cenno al dorso delle mani. anche se lì è sempre il sole che lentamente, progressivamente nel corso dei decenni tende a dare questo imbrunimento, quindi quelle che noi chiamiamo macchie d'età in effetti sono delle lentiggini senili ma dovute sempre all'azione dei raggi solari. Importantissima la localizzazione, abbiamo sentito prima una radioascoltatrice che parlava di macchie bianche che sono venute dopo il mare, le ha notate sulle gambe, ecco lì il mare, il sole le ha solo rese più evidenti, quella è quella che noi chiamiamo in termini tecnici una, verosimilmente un'ipomelanosi guttata. Che cos'è? Anche quello è un processo di invecchiamento, di fotoinvecchiamento, e quindi le macchioline bianche si localizzano nettamente proprio agli arti inferiori, qualche volta agli arti superiori, ma certamente in zona pretibiale, quindi sulla parte anteriore delle gambe. Non so, quelle del viso a cui lei si riferisce a volte sono scure, per esempio sul prolabio oppure sulla fronte o sugli zigomi, molte donne ne soffrono, è quello che noi chiamiamo cloasma, che viene accentuato dalla luce solare e che naturalmente crea un problema estetico di non poco conto. Quindi la localizzazione senz'altro ci indirizza verso una possibile diagnosi. E sentiamo in linea con noi Uberto che ci chiama da Milano, 824 0024. Uberto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie, complimenti, mi fate sempre compagnia, sono sempre in autostrada e ho proprio una domanda fresca fresca. Bene. Quest'estate, per la prima volta, io ho 50 anni, mi abbronzo molto facilmente, ho comunque parecchi nei, amo il sole un po' come tutti, però non è che vada in sovraesposizione, non è che mi brucio, mi scotto, eppure quest'anno sul petto sono apparse delle macchioline con delle piccole crosticine che poi vengono via, non so se è qualche allergia, qualcosa, o possono essere classificabili o devo andare al dermatologo, sono già sparite il sole. Sono sparite dopo il sole. Allora, professor Monti, Uberto dovrebbe farsi dare una controllata. Che cosa potrebbero essere queste piccole macchie con crosticine? Ecco, le macchie con crosticine dopo l'esposizione solare fanno pensare alle cheratosi solari, cioè questa forma particolare di invecchiamento che a 50 anni può essere già presente e che più avanti con l'età ci sarà senz'altro, e che quando si esce dall'esposizione solare, non si prende più il sole, tendono inizialmente a retrarsi, a non farsi più vedere, ma poi torneranno il prossimo anno e così via. Sono segni che la nostra pelle ha già preso abbastanza sole, quindi che bisogna stare un pochettino attenti, usare un pochettino più la maglietta, il cappello, insomma, starci attenti col sole, perché il sole evidentemente nel tempo, e più gli anni passano e più lascia il segno. Professor Monfrecola, spesso si associa la presenza di quando vediamo una macchia chiara si pensa ad un fungo, molti ascoltatori ci stanno scrivendo, senza voler fare dell'autodiagnosi che può essere inutile, ma come possiamo accorgerci che la macchia dipende dal fungo e che cosa si può fare? Vede, quando parliamo di funghi parliamo di una categoria di malattie piuttosto ampia. Io penso che lei si riferisca, anche il radioascoltatore si riferisca soprattutto a quello che noi chiamiamo pitiriasi versicolore, in altre parole quello che erroneamente, insisto su erroneamente, viene chiamato fungo di mare, cioè quelle macchioline che vengono in genere sul tronco, sul collo, e che si notano soprattutto in estate. Perché? Perché il resto della pelle tende ad abbronzare e quelle zone rimangono chiare, un po' a stampo. Sì. Queste stesse macchioline però possono avere diverso colore secondo l'epoca di insorgenza, per esempio in inverno possono essere addirittura rose o marroni. Allora, come si fa a capire se è un fungo? Beh, innanzitutto per la ricorrenza, ogni anno stranamente la stessa persona ritorna ad avere lo stesso problema, e che poi tende a sparire lentamente nel periodo invernale, e non ci sono sintomi particolari, qualche volta un lievissimo prurito, ma nient'altro che questo. E queste macchioline preoccupano non poco dal punto di vista estetico, molta gente è convinta che siano infettive, in realtà il fungo, il lievito che produce questa malattia, che si chiama Malassezia furfur, vive normalmente sulla cute umana, quindi non è così cattivo come si pensa, non c'è il rischio di contagiarsi o di trasmetterla attraverso asciugamani o d'altro. Ci dà una buona notizia. Siamo tranquilli, il problema cos'è? Che quel tipo di pelle purtroppo è soggetta a quella cosa, perché in genere si tratta di persone giovani con cute un po' seborroica, quindi sì, questo fungo vuole grasso, vuole sebo, e in più vuole calore e umidità. Quando è che c'è calore e umidità? In estate, quindi si suda di più, oppure persone fanno palestra o fanno attività sportiva, quindi calore, umidità e cute un po' seborroica slatentizzano, se mi passa il termine, questo lievito, il quale si attiva e comincia a colonizzare la pelle. In questo caso fa quello che diceva poc'anzi il collega Monti, cioè toglie via melanina alcune volte, altre volte invece tende a macchiare. Comunque sia, le macchioline poi persistono nel tempo e poi vanno via man mano l'abbronzatura sparisce, naturalmente c'è bisogno di trattamenti. E noi di trattamenti parleremo subito dopo gli aggiornamenti dei mercati finanziari insieme al professor Monti e al professor Monfrecola. Saluto anche Benedetto che ci chiama da Milano. Benedetto. Sì, buongiorno. Buongiorno Benedetto, vieni con me a sentire gli aggiornamenti dei mercati finanziari, a tempo di attendere e poi affiderò alle mani dei nostri esperti? Va bene, grazie. Più che alle mani e ai consigli. Allora, tra poco 824 0024, il nostro numero verde a vostra disposizione, scriveteci invece al 349 238 6666. Eccoci di nuovo insieme, oggi una puntata dedicata alla nostra pelle, al rientro dalle vacanze. Ci eravamo lasciati con alcune macchie, adesso poi con i nostri esperti proveremo a cancellarle, ma abbiamo Benedetto che ci aspetta con la sua chiamata da Milano, 824 0024. Benedetto, è arrivato il suo momento. Posso chiedere? Certo. Allora, a me mi hanno diagnosticato lichen lupus, mi hanno detto. Sono praticamente dei puntini tipo brufoletti, però all'interno non c'è niente. Ce l'ho nel palmo della mano, nel polso, nell'applicato del polso all'interno, sotto il plantare del piede, attorno al tallone, eppure mi ero venuto nelle dita, mezzo dita dei piedi. Sì, danno fastidio, Benedetto? Un po' prurito porta. Un po' di prurito. Adesso non perché mi ha fatto fare il medico una cura, però c'è cortisone, non è proprio una cura, è una cosa per tamponare. Però è già da un po' che ci vado dietro non ci riusciamo a saltare fuori. Ho fatto fare delle analisi al fegato, per epatite, queste robe qua, tutto niente. A posto. Senta, cosa possono... Ma noi chiediamo al professor Monti di darci una mano. Professore, ce la fa? Sì, è possibile, penso che si tratti di lichen. Sì. Il lichen è una malattia che ha una causa sconosciuta, noi non sappiamo perché viene, ma ha anche un andamento benigno, è fondamentalmente fastidioso per queste papulette che vengono appunto ai polsi o tra le dita, insomma, ma con un po' di pazienza nel giro di 6 mesi, 1 anno, così se ne vanno anche spontaneamente. Tra le cause del lichen, supposte perché non sappiamo esattamente quale sia quella vera, c'è anche lo stress, quindi bisogna stare attenti, non essere troppo stressati perché questo potrebbe essere il motore che porta avanti il lichen. Benedetto ci dice che sta usando il cortisone, lei è d'accordo? Assolutamente no, serve a poco o a niente, potrebbe dare più danni che benefici. Meglio i prodotti riducenti naturali come l'itiolo solfonato, il catrame, queste cose qui, che non ricorre al cortisone, non ha senso, insomma. E allora, a proposito di rimedi, vogliamo passare rapidamente in rassegna le macchie di cui abbiamo parlato di quelle legate all'età, le macchie che invece sono espressione della presenza di un fungo che ama, no, la pelle un po' grassetta e umidina, tipica, no, di quella in estate, c'è più umido e il caldo. Vediamo quali sono i rimedi. Professor Monfrecola, lei che macchia ci aiuterebbe a cancellare? Possiamo provare quelle dell'età? Sì, quelle dell'età. Cancellarle è possibile attraverso vari rimedi, fra cui i peeling, per esempio, oppure l'uso continuativo di creme contenenti acido retinoico, oppure attraverso l'utilizzo di strumenti capaci di allontanare gli strati superficiali della cute, quindi se la macchia è, come noi sappiamo, localizzata nell'epidermide, quindi nella parte più alta della nostra pelle, l'allontanamento di questi strati in maniera controllata ci può permettere di eliminare. Naturalmente stiamo parlando di qualche cosa che però richiede degli strumenti, tra cui i laser, che non sono strumenti miracolosi, intendiamoci, un po' la vulgata popolare pensa che siano quasi delle macchine capaci di cancellare. Sì, delle gomme potenti, no? Esatto, no, in realtà il laser permette un controllo dell'impulso e quindi di poter essere sicuri di allontanare gli strati che serve allontanare e contenenti naturalmente questo pigmento in più. E quindi questo, naturalmente ci sono vari tipi di laser, qui bisogna essere anche cauti e poi soprattutto affidarsi sempre a persone, quindi a medici, a dermatologi, che sappiano come si adoperano, che abbiano un training e un'esperienza adatta per questo tipo di lavoro, perché certo, altrimenti si rischia poi di avere degli effetti che non sono quelli desiderati. Professor Monti, con lei invece andiamo a dare dei consigli a chi ogni anno puntualmente, no, si ritrova con le macchie, no, provocate dal fungo. C'è modo di eliminarlo completamente? Mi sembra di no, o di fare un po' di prevenzione. Che cosa si deve fare, insomma? Ma qui in Humanitas abbiamo una tecnica che funziona bene e che è molto semplice. Usiamo lo zolfo ancora, un vecchio prodotto rimedio naturale che però ha il grosso vantaggio, lo zolfo soprattutto in forma colloidale e in crema, sì, di rimanere molto legato alla pelle perché ha un'affinità per la nostra cute molto molto importante. Per cui basta un'applicazione di questa crema con lo zolfo colloidale, magari fatta ogni 15 giorni, anche ogni 20 giorni, e noi facciamo un'ottima prevenzione, il fungo non riappare più. E quindi il nostro consiglio è quello di non tanto di ricercare gli antifungini, questi farmaci qui che hanno un'emivita breve, ma meglio lo zolfo colloidale che proprio si lega la pelle e impedisce al fungo di crescere. Un consiglio che possiamo dare anche a Marzia da Udine che ci scrive: sto allattando e ho dei funghi sul collo, come posso curarli? Professor Monti. Sì, è la stessa cosa, quindi zolfo colloidale, se i funghi sono già presenti bisogna mettere la crema con lo zolfo magari 6-7 sere consecutive, se invece vogliamo fare prevenzione e non vederli più, ogni 15-20 giorni mettiamo una volta alla sera la nostra crema e il fungo sta via, insomma. Dopo le macchie vorremmo occuparci dei nei. Professor Monfrecola, spesso al ritorno dall'estate notiamo dei nei che sono nati. Nuovi. In questi casi dobbiamo sempre tenerli sotto controllo, dobbiamo parlarne con il nostro medico oppure facciamo finta di nulla? Il problema è questo qui, che bisogna evitare naturalmente di essere ansiosamente portati a controllare di continuo i nostri nei. Tuttavia, ecco, rimanendo al quesito preciso che lei ha fatto, se ritorno dall'estate e mi ritrovo un neo abbastanza grande, diciamo di 3-4 mm di diametro almeno, che non avevo prima, che mi sembra di un colore non così compatto, omogeneo, ma un po' variegato, se mi passa il termine, sì, e con un contorno un po' sfumato, un neo che prima non avevo, è evidente che devo andare prima dal mio medico curante, sentire un suo parere e poi, in base al suo parere, eventualmente rivolgermi poi al dermatologo per un ulteriore controllo. Tutto questo però non deve metterci sempre in ansia, cioè non è detto che ogni fine estate noi dobbiamo poi fare un controllo del genere. Chi invece deve fare controlli più frequenti, beh, questo possiamo discuterne se vorrà. Comunque sia, il problema di controllare i nei dipende naturalmente dalla presenza o meno di quanti nei ci sono, cioè se io ho molti nei è evidente che non riesco a tenerli sotto controllo tutti quanti. E ci allora vuole un occhio clinico. Ci vuole un occhio clinico, certo. Abbiamo Marco da Lecco, buongiorno Marco. Sì, buongiorno, io chiamo perché ho da sempre un neo in basso alla schiena, da quando sono vivo, diciamo. Sì, da quando è nato. Da quando è nato, esatto. Quest'anno ho preso sole a livello sporadico, volevo precisare che ho la pelle di carnagione abbastanza scura, quindi difficilmente mi scotto, sì, però non sono un maniaco del sole. Ho preso questo sole a livello sporadico e al ritorno mi sono accorto che questo neo, che è di diametro di 5-6 mm, si è contornato da un cerchetto bianco molto regolare. Volevo chiedere al professore se dipendeva appunto dal sole. Grazie. Devo fare dei controlli. Grazie Marco. Professor Grazie. Monti, il professor Monfrecola ci ha dato già delle indicazioni molto precise su come comportarci con i nei che nascono, no? I nuovi nei. Quali invece variazioni, modifiche dobbiamo tenere conto dei nei che sono già esistenti, ad esempio come quello di Marco, nota questa zona più chiara? Ecco, la zona più chiara è già un segno di instabilità del neo, qualcosa che sta avvenendo intorno alla macchia scura, al neo stesso. È bene raccogliere questi segni se siamo in grado di vederli e non lasciarli perdere. Oggi c'è una tecnica molto precisa che si chiama dermoscopia computerizzata, si va dal dermatologo, il dermatologo con questo strumento che è praticamente un microscopio che legge direttamente dentro la pelle la distribuzione della melanina, sa dare tutte le indicazioni, cioè la densità di melanina, i diametri, la disposizione eccetera. E soprattutto mette in memoria il tutto, tutti i dati che ha raccolto. Lo strumento poi viene riutilizzato magari dopo 6 mesi o dopo un anno, questo lo dice il dermatologo, e si va a controllare se questo neo che noi supponiamo si sia destabilizzato, quindi stia crescendo, stia modificandosi, quindi abbia rischio di andare verso il melanoma, è stabile o non è stabile? Se è stabile non facciamo niente, magari invitiamo il paziente a ripresentarsi per un nuovo controllo dermoscopico. Se è instabile, cioè se vediamo che anche la macchina ci dice no, qui le cose non vanno tanto bene, è meglio asportarlo chirurgicamente e non pensarci più, insomma. Aldo ci chiama da Bologna, 824, buongiorno, 0024. Aldo, che succede? Ma niente, io ho delle macchie sul viso e anche alle braccia, e sopra queste macchie ci sono comparse sul viso da un giro di 2 anni, molto accentuate. Ma di che colore sono, Aldo? Ma qualcuno mi dice che sono delle macchie di vecchiaia, marrone, un marroncino, però ecco, non hanno dello spessore, sono naturalmente... però ha capito, anche sul viso è come se uno fosse sempre sporco, invece certo. Ha capito, molto accentuato come colore. E da fastidio. Professor Monfrecola, lei ha capito? A me sembra di sì. Lei? Allora, che età ha? 45 anni, professore. Prego. 45. 45, bene. È possibile, anche se abbastanza precoce come cosa, che si tratti di macchie dovute all'azione dei raggi solari, visto che le descrive proprio in zone cronicamente esposte alla luce solare. Naturalmente in tutto questo fa gioco la genetica del soggetto, cioè ognuno di noi avrà una risposta alla luce solare in base a quello che madre natura gli ha dato come patrimonio genetico. Ora, queste macchie di colore scuro verosimilmente sono di tipo, virgolette, lentigginoso e quindi probabilmente legate proprio all'esposizione al sole, quindi fenomeni di fotoinvecchiamento. E a questo punto sì, la prevenzione può essere fatta, perché non è detto che perché ci sia non si possa prevenire applicando con molta attenzione delle creme, perché noi prendiamo il sole anche camminando per strada, intendiamoci, non andando solo al mare, purtroppo questo è un dato che non tutti quanti tengono in conto, ma se siamo lì a far 4 passi anche nelle strade del centro, alla fine della giornata avremo avuto una certa irradiazione. Sì. Quindi, devo dire, professor Monfrecola, che lei che ha la fortuna di abitare a Napoli, questo le succede, no? Si prendono anche due, no? Con il sole di Napoli. Noi a Milano abbiamo invece sempre questo sole coperto, ma anche a questo bisogna fare attenzione, vero professore? Sì, sicuramente. Cioè, è meno sì. Bello, ma fa danni anche lui. Sì, naturalmente dipende sempre dal tipo di pelle, ma anche, le dice bene, anche attraverso una piccola nuvolosità, non molte nuvole, ma passa comunque una certa quota di ultravioletto, quindi è anche vero proprio questo, quindi prevenzione sì, e poi naturalmente un po' il sentire estetico della faccenda, se Aldo reputa che queste macchie siano così lesive per la sua, virgolette, bellezza, ecco che può rivolgersi poi al dermatologo per poter vedere se trova un rimedio. Con laser o con altro, ci sono anche delle tecniche, abbiamo detto prima, non di tipo, diciamo, strumentale, ma di tipo più medico, cioè dei peeling, per esempio, trattamenti con sostanze capaci di riportare in buona parte alla pelle una certa normalità. Allora, quindi buone notizie anche per Aldo, adesso andiamo a vedere se ci sono buone notizie sul traffico, poi torniamo insieme, 824 0024, parleremo anche delle malattie che con l'esposizione solare hanno avuto dei vantaggi, perché vorremmo prolungare l'effetto benefico del sole il più a lungo possibile. A tra poco. Essere e benessere. Eccoci, siamo tornati insieme. Professor Monfrecola, le leggo un messaggio di Aldo da Roma che ci scrive: psoriasi al cuoio capelluto, per ora tutto bene, ma ogni anno poi la situazione peggiora drasticamente. Si può fare qualche cosa, professore? Allora, innanzitutto, bisognerebbe sapere se questa psoriasi ce l'ha solo al cuoio capelluto oppure coinvolge altre zone del corpo, e poi soprattutto di che entità è, perché sa, a volte una forfora, tra virgolette, più abbondante del normale già si può configurare come una forma di psoriasi, altro invece è una psoriasi che forma delle placche vere e proprie con delle grosse squame aderenti al cuoio capelluto. Quindi in base all'entità e in base un po' alla diffusione noi possiamo scegliere opportunamente il trattamento. In che cosa può consistere il trattamento locale? In genere usiamo quelli che noi chiamiamo cheratolitici, la parola significa che qualcosa che scioglie, diciamo, che disgrega la cheratina, quindi quelle squame così intense che caratterizzano la psoriasi. Sì. Quali sono i suoi cheratolitici più classici? L'acido salicilico, per esempio, l'urea, che sono contenute a volte anche in degli shampoo, oltre che delle lozioni, quindi già questo potrebbe aiutare a rimuovere un po' di questo. Poi naturalmente ci sono i farmaci sempre per via locale, per esempio attualmente si usano moltissimo il calcipotriolo, una sorta diciamo di derivato della vitamina D, o anche delle lozioni cortisoniche. Questo può essere sufficiente in quei casi ben localizzati, naturalmente c'è bisogno di reiterare di tanto in tanto il trattamento. Se invece questa ptosoria non colpisce solo il cuoio capelluto, ma è anche interessante il resto del corpo, e qui poi entra in gioco tutto diciamo l'armamentario terapeutico che il dermatologo ha a disposizione per trattare casi di psoriasi gravi, che si possono trattare ovviamente anche con farmaci per via sistemica in pillole e in iniezioni, ma è un discorso un pochino più molto complesso. Più ampio che complesso. Abbiamo in linea invece Sergio che ci chiama da Roma. Sergio, buongiorno. No, buongiorno, io chiamo da Rimini, non da Roma. Ah, vede, l'hanno trasferito d'ufficio dal centralino, hanno bene, però insomma a Rimini si sta meglio. Sergio, ci racconti. C'ho questo problemino nel cuoio capelluto, c'ho delle piccole crosticine e ogni tanto quando c'ho prurito mi gratto un po' e mi vengono fuori una specie di squame, di pelle come... sono andato in 2-3 così posti, mi hanno detto che dovrebbe essere una dermatite seborroica. Il professor Monti non può vederla, ma alla parola dermatite seborroica sicuramente ci può dare qualche consiglio. Si localizza anche sul cuoio capelluto, professor Monti, che cosa potrebbe fare Sergio? Sì, la dermatite seborroica ha come sede di predilezione proprio il cuoio capelluto. E io ai miei pazienti non do prodotti farmacologici, lo zolfo che citavo prima, lo zolfo colloidale, ha anche un'ottima azione antidermatite seborroica, quindi ci sono queste creme facili da applicare che non ungono e che mandano via il problema. Il problema sembra difficile, in realtà è molto semplice, tanto è vero che anche andando a fare il bagno, visto che il nostro interlocutore di Rimini, con l'acqua salata del mare di solito queste squamette vanno via da sole. Quindi la parola magica zolfo? Zolfo colloidale, queste creme a zolfo colloidale. Il zolfo è un prodotto molto importante per la dermatologia. E di zolfo magari parleremo in una delle prossime puntate, perché professor Monti ci ha incuriosito molto questo zolfo, per cui noi torneremo a parlare. Intanto io vi ringrazio per essere stato con noi, come si dice con voi la puntata vola. Professor Monfrecola, grazie. Grazie a lei, buona giornata. Grazie anche al professor Monti. Grazie a tutti. Buona giornata allora, grazie. E adesso prima di chiudere voglio salutare un ospite davvero speciale. Ha 28 anni, è di Cinisello Balsamo, pugile, soprattutto medaglia d'oro alle recenti Olimpiadi di Pechino, proprio nella categoria super massimi di box. Insomma, ormai l'avete indovinato, in linea con noi c'è Roberto Camarelle. Buongiorno Roberto, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Oh Roberto, che emozione. Grazie. Roberto, per tutta questa settimana noi vogliamo chiedere ai campioni di Pechino di aiutarci a vincere nel quotidiano, a vincere le piccole paure, i momenti di insoddisfazione, le difficoltà, a provare a vedere rosa anche quando invece tutto intorno ci sembra nero. Allora ho iniziato subito con te, perché io so che dato che la box aiuta proprio a controllare le nostre energie, a incanalarle nel modo giusto, secondo me tu hai dei consigli da darci. Proviamo. Sì, innanzitutto bisogna pensare positivo, anche ai più scettici, anche quelli che sono pessimisti, di cercare assolutamente, sforzarsi di pensare che questo è solo un momento. Quando si passa quel momento, no, è solo un momento che poi finirà. E come insegna il pugilato, se nella vita può succedere di andare a cappotti, ti puoi rialzare in ogni momento e continuare. Quindi tranquilli. Roberto, tranquilli, un lungo respiro e poi non perdere mai la speranza e insistere, vero? Esatto, perché anche i piccoli fallimenti aiutano a capire se stessi, gli errori e migliorarsi. Poi se i risultati sono, se ci avviciniamo ai risultati tuoi e se diventiamo anche noi dei campioni, allora ben vengano anche i fallimenti. Ognuno di noi ha il campione dentro se stesso, lo deve solo tirare fuori nel momento giusto. Grazie Roberto, complimenti ancora, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Un saluto a tutti. E per oggi è tutto, un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone. Radio 24, la passione si sente.